c'era un bel po' di vento invece. Da qua c'era una cisterna che fischiava facendo cattoni a rocca, era di quelli parate. Io lo stesso ho visto la antenna che oscillava avanti e indietro, ho detto ma speriamo bene, però già stamattina era bella dritta invece. Lei ha detto anche la mia Evo, gli ho messo anche 10 tiranti, che già basta. Io ho tiranti zero proprio, non ne ho tiranti. Guarda questo come è, come va, va meglio? Certo che va meglio. Vabbè, lascio questo, là, se va meglio. Bene, Franco, buonasera, Carlo. Ciao Carlo, buonasera, mi ascolti, sì. Questo va meglio dell'altro, questo va meglio dell'altro, sì, ma ti sentivo bene anche prima, eh. Sì, vabbè, l'altro era un apparecchietto così, capito, omologato. Però stavo provando, giusto a vedere come stava andando, tutto qua. Esce veramente bene. Va bene quella radio, sì. Bianco per me, dai, che è arrivato a mangiare. È arrivata la pizza, ciao ciao. Sì, va bene, non canta un'altra pilotando. Con la PLC 800 stavo andando e va benissimo quell'antenna. Però credo che va bene. E questo come va? Prova, va bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buonas tardes a todos. Va bene, va bene. Questo va bene, lui? No, no, no. Questo qua è il Cobra. Il Cobra non è un serpente. Va bene, va bene. Sono bene, non sono problemi. Questo è normale il microfono, solo che il baracchino che ci ha letto, io sto usando il baracchino con un microfono normale. Va benissimo, ti ascolto bene, non sono problemi. Fermo, bella modulazione. Io c'ho il pitone in macchina, altro che Cobra, Cosa c'è il pitone? Ma sarà morto adesso. No, già è vivo già. Vai Tore. Pizzone. Che roccio, no. Non vi piace il roccio, no? Io non intendo di queste cose in macchina. Già non c'è problema. Non so gaffarradori. Manco io. Io c'ho la Glock però. Vabbè, ma non la puoi usare. Se la usi ti pone le manette. Vabbè, comunque. Stavo dicendo, Natale, l'ultima volta che sei sceso lì al campo, quando sei sceso con me, no. Mi sa di sì, Poi non sono più sceso perché già lo sai cosa mi è successo. Quella volta che c'era col vento che spostava i tirascini. Vabbè. Comunque. Adesso la prossima volta quando c'è bel tempo ci vai tranquillo. Infatti già mi sto riprendendo. Ma poi già viene il bel tempo, capito? L'altra volta c'era troppo vento, c'era fango, vento, non faceva. C'era anche Franco il meccanico qui. A lui piace molto lo stesso. Lo so, lui spara col fucile però. Oh, anch'io ce l'ho il fucile, ne ho due, a Mariduno, c'ho una carabina e il fucile, ma mi piace più sparare con la pistola. Lui c'ha Winchester, mi pare, vero? No, una carabina era, per il cinghiale, di quelle grosse. Scappa. E tu Carlo non ci vai a sparare? Io ogni 3 mesi purtroppo. Al poligono? Sì, al poligono. Cappagata. Vabbè. Tu lo fai per mestiere. Normale che lo devi fare. Ma Natalino lo fa per sport. Sì, il tiro sportivo va bene. Anche a Coso, a Uri forse c'è un campo dove si può andare per sparare. Già lo so, io sono andato anche lì, sono amici miei quelli lì. poi andavo alla Crucca, adesso ero iscritto ultimamente a quello sulla strada dei due mari, che c'è anche il tiro al piattello. Già lo conosco anche quello io, ci sono andato un paio di volte lì. Allora te la corri? ogni tanto sì. Allora ce la corriamo. Mi sfidano, ti sta Carlo. Eia, quando va bene si può fare, sì. E infatti. Poi la tarita se ne costruisce lui. Poi le munizioni se le fa lui. L'utile che ha la macchinetta. Cava. Allora con le borse se le rifà. Che calibro è la tua, Carlo? Vabbè. E poi ho anche una 765. Anch'io, ho la 9x21 più la 765. Quella 765 è una Blawing, ma era di mio padre, quella ce l'ho come detenzione, capito? Ce l'ho da una vita qua. E io ho la Beretta modello 70. Capito, l'ho portata anche a, io al poligono quella a sparare la 65, è bellina, è solo va di un zocco quando spara, se non hai le cuffie ti fa più casino della calibro 9. Bruni 9 lunga, ma non ce l'ho più. Venduta? L'ho data. Ho fatto lo scambio. L'ho data. Me la scacciaccare, non è la vera. Hai capito? Già. C'aveva il bollino rosso. Già, ho capito. Vabbè. Comunque guarda, è uguale come peso, come tutto. C'è gente che si fa tornire la canna e spara con quelli di lui. Perché è un amico mio, non hanno sparato con la di quello. C'aveva un circolo, sono entrati a fare una rapina, lui ha visto la storia, è andato a chiudere la porta e l'hanno preso al braccio. Pettina, mi sa che c'è stato un break. Avanti, ho sentito un break prima e non si sente più. No, pensavo che tu lo sentissi, io non lo sentivo, pensavo così, che era dai paesi magari. Vabbè, c'è Antonio sta mangiando la pizza. Proseguiamo, a chi tocca, avanti fra, venditore, tutti morti sono, facciamo l'appello, chi è rimasto? Io, Carlo e Lattarino, Luciesi. Sì, però Antonio prima aveva salutato a dire che gli era arrivata la pizza e andava a mangiare, magari rientra dopo. Ecco. Vabbè. Quando rientra ce lo prendiamo, sarà bello sazio quando rientra. Già lo credo. C'è il QRM alto, avete voi oggi? Sì, un po', ma più ieri è la QRM di propagazione, mi capisco? Sì, qua è abbastanza alto, c'è lo squelce, l'ho portato in alto, infatti. Ma infatti. Sì, dipende poi dall'antenna, quando l'antenna ha molta ricezione riceve anche molto QRM, quella la problematica delle antenne che ricevono molto. Lo so, la mia è una di quelle, prende segnali bassi ma vanno bene quando non c'è il QRM, ma se si alza quello non li senti e fai fatica, capito? Prima si sentiva qualcuno da Alghero, però non so se ci sia ancora. Ci dovrebbe essere. Attenzione, l'amico d'Alghero, avanti. Buonasera amico, sì, ti sento qua, Santiago 7, Radio 4, sono Carlo da Cessassari, Ceggiani, Natalino, Ottore, siamo 3 o 4 persone qua, però ti sentiamo abbastanza bene. Gianni, un attimino, Gianni, io vi sto lasciando, saluto a tutti quanti, ok, ciao a tutti, statemi bene. Ciao Ottore, ciao, mi hai sentito, buona serata, avanti. C'è Mirko, lo sentite voi d'Alghero, Santiago 7 da me a casa mia, Radio 4, abbastanza comprensibile, buona la radio. Ciao Ottore. No, io di Santiago lo sento abbastanza bene, ma la radio è un po' bassina, c'è QRM qua. Alghero. Cosa? Alino sta dicendo se lo sente Mirko da Alghero. Allora, l'antenna è troppo bassa, no, non lo sento, capito? Col QRM, se non passano il QRM non li sento da qui. Bisogna, quando piazzo l'antenna nuova, già la metto più in alto. Aspetta che gli chiedo se mi ha sentito prima, ci sei ancora Mirko? Che ho capito Mirko, e gli altri amici ti sentono ma c'è molto QRM che ti copre, capito? Arriva il segnale ma la radio viene coperta dal QRM, KK, avanti Gianni. Già lo sento, ha detto che deve sistemare l'antenna che è capottata, ma il vento te l'ha rovinata, o Mirko? Vabbè. E da che cosa? Qualche fulmine, qualche cosa così? Sono rientrato, Antonio. Va bene Mirko, dai, al limite te la metti a posto, dai, poi ci sentiamo lì. Avanti Antonio. Grazie, saluto Mirko, se mi senti. Non lo sento io, ma molto basso. Arriva a 3, dai, qua, massimo 4. Kappa, mi senti? Kappa, dai, già... Poco, ma già ti tiro fuori. Non c'è problema. Avanti, Carlo. Antonio, era buona la pizza? Buonissima. No, non l'ho fatta molto, molto tranquilla, ho detto oggi. Margherita ha mangiato. Una gigante. E ce l'abbiamo divisa... ce l'abbiamo divisa in 4, in 3, dai, ce l'abbiamo mangiato. Già va bene, la margherita è la migliore poi alla fine. Gira che ti rigiro, sempre quella è la migliore. Io prendo 8 le cipolle o frutti di mare, ma solo quando sono freschi, in posti di mare. Lo so, quello è l'ideale. No, anche a me non è che mi piacciono tanto complicate. Da poco l'avevo presa con carciofi ed era pesante, però capito, era pesante per carciofi, capperi, di quelle un po' sfiziose, capito, però non ne prendo più così. Io non cambio mai. Io prendo sempre quelle perché c'è il gusto. Quella con le cipolle mi piace tantissimo, la più saporita che c'è per me. E a chi? La Corsara, amara è. Com'è la Corsara? Come? Com'è la Corsara? Dillo a Gianni com'è la Corsara, già lo sa lui. Non me lo ricordo, l'ho chiesto anch'io, non me lo ricordo com'è. Veramente che col frutti di mare, la parte della Portodorra. In quella pizzeria a Porto Torre, da San Gavino. No, non è la Corsara, quella che prendevo io era quella con i frutti di mare. E non si chiamava la Corsara, si chiama... adesso non mi viene, ce n'è una che è buona qui a San Gavino, che la chiamano la Spadara ed è fatta con il pesce spada, va buona via. E poi quella che prende è quella con la zuppetta di mare, non è la Corsara, però non me lo ricordo. Non me lo ricordo come si chiama, il pescatore forse. No, già, era così, tu non te lo ricordi adesso, ma era così. La Corsara è quella che ci mangiavamo, è vera una montagna di gozzi, sobra. Ah, boh, vabbè. Io mi ricordo la pescata, vabbè, comunque, quella che fa da San Gavino secondo me è number one. E infatti qualche notte vado e mi prendo quella lì, già sono un anno che non ne mangio più. Ma tu ce l'hai in pasta? Certo che ce l'ho. E allora vai. Vabbè, non è in tutti i posti che lo chiedono. Comunque l'altro giorno sono andato in Ferramenta e via Bugino, praticamente mi hanno chiesto il Green Pass all'entrata e adesso in certi posti lo chiedo, ma solamente a voi facciamo di noi. vabbè, comunque me l'hanno chiesto. Aspetta, mi favorisce il Green Pass, per favore. Dice da oggi non devo chiedere. Io ce l'ho anche plastificato e ridotto piccolino piccolino. Anch'io. L'ho fatto via Baldè da lì, con la carta libreria che c'è. L'ho fatto lì. No, io l'ho fatto in via Pietro Micca. Ma che sei antipatica. Se è antipatica o simpatica non lo so. Io l'ho fatto lì. Io ho capito. Fa storia per ogni cosa. Sembra che quando tu riporti le cose stai facendo favore a te, mentre tu stai andando su di lì. Ma sono andato a fare un bonifico bancario. Mi dai 3 euro, 50 ogni volta e vorrò un legge ogni volta. E quando mi deve fare questo, quando mi deve portare quello vecchio per vedere com'è. Ma cosa ti gusta? Ma se non andavo in chi beve ne ho dalla chino sotto a casa mia, fatemi tutto. No, se non andate via a Pasqua, 2 secondi me la fa. E anche. Io tutte le cose che devo fare le faccio al tabacchino qui sotto casa, fanno tutto. Ma tu sei lì, io attento al parcheggio in chili come ti posso. Te lo sai. Infatti, l'unico problema è il parcheggio qua. Ma c'è sempre quello del tabacchino. Libero, capito? Ti posteggi lì 5 minuti. Ma c'è carico scaricone? Ehi! L'altro giorno sono andato a Fusaro. Oh, 2 secondi ci sono stato, ho messo la macchina dove c'è carico scaricomerci della Comec lì. Praticamente dopo 2 secondi sono uscito e mi sono trovato in vigile urbano a fianco alla macchina. Stavo già facendo la multa, già col bollettino in mano. Lì è un macello. E poi adesso hanno fatto anche i lavori, prima la mettivi sul marciapiede, se rischiavi sempre perché lì passano sempre, lo sanno che non c'è parcheggio, quindi passano ogni volta a mettere le multe. Ne hanno messo diverse di multe, erano quasi arrivati alla mia, già con bollettino in mano, non hanno fatto quella che c'era prima di me, poi sono arrivato a lei perché ha messo la macchina qua. Guarda, 2 secondi sono stata, dovevo dare una cosa e poi sono venuto subito, sì ma non si parcheggia, qua non vado un po' di studio, vabbè. E non me la ribuccio però. E sei stato fortunato, a me anche al Palazzo Rosa me l'hanno messa. Avanti. Sto un attimo al telefono con Antonello che mi stava inviando un link e quindi non vi stavo ascoltando perché era al telefono, adesso ho chiuso, niente, l'Atalanta è sempre 0-0 col Genoa, riprendi già. C'è anche Antonio, Antoine. Ehi, però è bocca, in Kiwi, come ti vera, come ti si chiama? La Crai lì. Cos'è, non me lo ricordo. Vabbè, comunque l'ho messa lì. Ma 2 secondi tutto, sono andata. Ho preso i fusibili, so chi si dovuto avere gli vigili urbani. Una donna e un uomo, stavano uno da una parte e uno dall'altra facendo le multe. Invece per rompere le scatole. E c'hanno il comandante che siamo andati lì, invece poteva messa sul marciapiede e non farlo per ha detto se non la poteva togliere che se ne stava andando, ha detto no perché ci ha chiamato qualcuno qua e gliel'ha messa di fronte al passo Carrabile e quindi non fa. Vabbè, meno male che ce l'ha fatta tu, no. Cosa vuoi fare? Sempre così va a finire. Vabbè, se hai pari ce la fai tu, e basta allora. Però intanto sono sempre scocciato, devi chiedere sempre favori. Già non so già. Insomma funziona. Cosa si può fare? Cosa ragazzi? Una volta fatte non le puoi più togliere, che sono già verbalizzate. No, a Franco gliel'ha tolta, chiedile se non ci scritti, gliel'ha tolta. E l'ha fatta togliere. No, già che sono verbalizzate, chiamano il vigile, gli fanno tagliare la cuffia e le tolgono. L'hanno tolta anche a Liliana. C'avevamo un amico, gliel'ha chiesto e gliel'ha tolto. Ecco. Se vuole già, ne aggrava. Ma so sempre scocciatura, guarda. Lì Fusaro si è lamentata, ha detto che da quando hanno fatto i lavori lì non si sta più fermando nessuno e non stanno più fermando come prima. Prima dice che veniva un gente, adesso poca gente perché non c'è posto a fermare. Già lo so già. Canta domani una su zocco me. Adesso vediamo come ne usciamo, ora ne aumento. Di cosa? Del gas, non bastava quella scorsa settimana pure domani. Aumento del gas. Adesso tra poco ritorno le accise tutto quanto. Vedrà che abbassa, perché gli autotrasportatori si stanno lamentando. Ma no, non vi credo, ma cappella che ne cava l'accisa. E come ti fa a pagare chi si gana in magnatore, chi sono in chiave? Ah, si arrangia, è una fottuta, è aumentata troppo la benzina, ci sono macchine a gogo in fila. Poi, tu devi vedere cosa c'è l'altro giorno, lì dove c'è coso, città mercato, lì sopra. Cazzo, tutto pieno di macchine, fuori, da tutte le palle. Ma la gente comunque dovrebbe... Cioè usano la macchina anche per andare a pisciare se ti vedi. Cioè la gente dovrebbe un pochettino usare altre cose alternative, anche se noi no, che oioia, anche boicottarli così. Cioè se non è necessario la macchina, di non usarla. Ma infatti, quando faccio la spesa, che prendo l'acqua, prendo tutta la... per spostarmi quando sono devo andare lontano la uso, se no per cose così a girare a vuoto prima ce lo salvavo in Natalino anche di notte, ce ne andavamo a fare più pistrelle, ma adesso lo fa di più vero Natalino. E prima si usava sì, adesso c'ho il pieno da chissà quando nella macchina io, perché non la stavo più usando. E meno male che consuma poco, perché se no guai. Anche la mia, le ho fatto il pieno la settimana scorsa, ma una tacchetta sola, accompagnata mio figlio Alghero, e poi l'ho usata pochissimo per andare a fare la spesa, qualche volta a Predanigia sono andata, sempre per questione di spese. Ma allora ho fatto un pieno alla strada, 128,50 euro. La mattadina in varia. Una. Perché dovevo provare l'antenna e boh. Mi ho messo l'antenna magnetica che sono uscita. Ah, non te l'hai piazzata al posto della VHF? No, ho messo la PLC 800, quella che avevo sul frigorifero. Sono riuscito a raschiare sotto l'antenna la base magnetica e me l'ho ripiazzata lì l'antenna. E funziona alla grande. È certo che deve funzionare. E sotto che cosa gli hai messo per non graffiare la caputina della macchina? E la gomma sua, cioè la gomma, no? Ah, ecco. E quella della Lema è fina fina, che non si vi annulla. Ma mi è caduta a me, la raschiata del coso, l'asfalto è micidiale. L'asfalto grassa, c'è poco da fare. I gallungaggi con la moto, ui. Gli ha messo qualcosa io. Poco brucia. Avanti, brucia la base magnetica, te la sei presa nuova, perché l'altra volta mi hai detto che ti si era rotta quella che avevi. L'ho presa nuova, uguale, identica, perché più grande non ce la vendono. Ha detto che era la più grande che c'era, quella da 60, io la volevo a 120 ma non la vendo. E allora ho preso quella che c'era e ho piazzato tutto di nuovo, no, già va la grande, 1-1 di stazionare. All'inizio mi stava andando fuori lo scala le stazionare, stava cosa a capoccia, l'antenna è nuova. E l'ho dovuto smontare per due volte tutto qua. E poi cosa era? Siccome dove si attacca il filo sotto l'antenna, non gira bene il filo perché è stretto il posto, quindi ho dovuto fare una piega per farlo girare. Beh, quella piega ha fatto sbucciare appena la guaina del cavo e toccava, e quindi faceva contatto e andava in corto. ecco perché mi fatti fare fuggibili in Antarino. Si mandava in corso la situazione, ma è frutto. Carlo, ma tu una Fiat Punto c'hai? Carlo, dimmi. Ma tu hai una Fiat Punto? No, negativo, io c'ho una Sandero, se puoi. Sandero, ma tipo fuori strada? Che mi di su, quelle cose là. Sai che ti ha già visto? Può essere, grigia, metallizzata. Perché ho visto una Fiat Punto l'altro giorno, poi ho visto questa tipo di macchina qua. Come vanno quelle macchine? Ma cos'hanno? Il motore è sempre Renault? La mia è 1.6 turbo diesel, cioè il motore Renault, è tutto dentro, anche lo stereo è il Medianav, quello che usa la Renault, tutto quanto è Renault, solo la carrozzeria diciamo la fanno in Romania, capito? Però io considero che la macchina tanto la lascio buttata in strada e mi serve per andare a lavorare, vado, torno, e quindi a me interessa che funzioni bene di motore, ma il motore è perfetto, con un pieno ci faccio quasi 1.000 chilometri con quella macchina, senza andare oltre 100. Gappa, già va bene, va bene. Comunque, no, perché andrà a prendere un amico, però mi ha detto già, ma poi ti fanno pagare i pezzi di ricambio, un sacco di soldi, ho detto prenditi quella, la paghi di meno, la paghi, quanto è la macchina, seconda mano, quanto viene quella più o meno, 18, quanto viene? Guarda, io quando l'ho presa io ce l'ho già 5 anni e mezzo e quando l'avevo presa avevo versato l'altra che avevo, che era una Opel Corsa, sempre turbo diesel, ma era un 1.3 e un 5 porte, me l'avevano ritirata, avevo preso quella e avevo aggiunto 11.000, l'avevo presa nuova, capito? Sì. No, io avevo la Station Vego prima, con l'antenna a centro cappotta, sempre turbo 2001, a centro cappotta, col buco sul tetto, e andava alla grande. Quella macchina l'ho venduta, a chi l'ho venduta l'ha venduta un'altra persona, insomma io l'ho versata con 35.000 km, l'ho venduta, perché dovevo comprare la macchina nuova, mi ha detto no, solo per l'ottavatura la possiamo prendere, deve pagare 150 euro perché c'è l'impianto a gas. Ha detto no, non mi conviene. Ho trovato un amico che ne aveva bisogno, ha detto dammi 200 euro per il passaggio, te la do. E gliel'ho data, era tutta gommata nuova, tutto quanto, e c'aveva la bobina nuova, e la macchina sta ancora andando, ha cambiato altri 3 proprietari dopo di me. E quando lo avevo 350.000 km, non ti dico altro, mai dato problemi con la macchina. Così vuole, io generalmente le macchine le tengo 10-12 anni, poi quando vedo che ci vuole troppa manutenzione e i pezzi sono logorati, in continuazione si rompe qualcosa, allora a quel punto verso e ne prendo una nuova. Alla fine ne avrò preso 5 o 6 di macchine nuove, capito, da quando c'ho la patente, da ragazzo. Mia moglie idem, lo stesso, adesso c'è una Opel Agila e gli ho fatto rifare la frizione, gli hanno cambiato i cuscinetti del cambio perché era rumoroso il cambio e duro, capito, quindi hanno fatto quel lavoro lì, gliel'ho fatto fare a Osilo, con 400 euro me ne sono uscito e praticamente lei c'ha 70.000 km, la macchina c'ha 11 anni e mezzo, però ancora va bene per città, tanto lei lavora a Sassari, va a scuola, va e torna a benzina, quella però già va bene. Ma poi sono macchine che sono freni, te lo sto dicendo. Io solo ultimamente è partita la centralina perché sicuramente con baracchino, con lineare questo e quell'altro, gli ho fatto partire la centralina io, se no non sarebbe partito. E ho pagato 1.200 euro per quell'unico, però poi l'ho versata, ma la volevo tenere, ho cambiato ruote, l'ho messa tutto a posto, quello che ci voleva. Il motore era buono, la frizione mi ha rifatta, la marmita mi è cambiata, cioè aveva un motore che era un treno. Lo credo, le Ford poi sono ottime macchine, dai, come motore sono, durano un sacco di anni quelli. No, la mia era Opel Astra Station Vega. La Opel Astra era, e neanche quelle tedesco, lo stesso, anch'io di Opel, mia moglie c'ha la Opel, io prima avevo una Opel, prima ne avevo un'altra, già sono, sin che vanno sono buone. Poi le cosine da sostituire originali costano, però se le prendi quelle, diciamo, non originali, già vanno bene lo stesso e riesci a ripararla comunque. Ma io ci avevo visto il 1300. Sì, Anto, io c'avevo il 1300. A gasolio? Sì, diesel. Allora io ho motore Fiat. Sì, quello era motore Fiat, certo. E ce l'aveva anche la l'appunto così, uguale. Ce l'ha. Una bomba con l'orim. Carlo, io quando mi devo prendere la macchina, il mio meccanico mi ha detto prendi le tutte, tranne la Opel adesso perché sta mettendo motori giù che non servono a nulla, si sfasciano subito. Prima già andavano bene, quando c'erano i motori GM Motors, come ce l'avevo io, il mio era GM Motors. Lo so, prima usava quelli e anche Fiat usava la Opel e andava bene. Adesso non so cosa stia mettendo. Ma non lo so ultimamente, ma quando glielo ho chiesto io 4 anni fa, dovevo prendermi la macchina, mi ha consigliato di non prendere la Opel, metto prendere tutte tranne la Opel, perché me ne stanno portando troppe di Opel da aggiustare. Sono tutti il motore difettoso perché stanno mettendo quei motori Isuzu. Ho capito, sì, allora non fa. La Opel ne fa belle di macchine esteticamente. Ce n'è qualcuna che è ottima, ma se stanno usando quei motori lì si l'attaccano dietro, capito? No, perché la percorsa che c'è le cose multigente, quelle andavano bene. Lasciate un attimo di bianco che c'è qualcuno sul fondo che chiama. Ehi, ciao Mario, ben sentito. Anche se sei bassino oggi perché c'è molto QRM. Ti ascolto ma un po' bassino. Vabbè, comunque. Sì, la Opel io ne ho avuto due di Opel. Ho avuto il tipo vecchio della Station Wagon, quello che per intenderci che c'era la valvola dietro per alzarla perché c'aveva gli ammortizzatori all'aria. No, quando dovevo andare a prendere l'acqua a Florida, perché andavo lì prima, mi caricavo un 6 o 7 bidoni da 20 litri, alzavo, rimettevo l'aria nella valvola, l'alzavo, così dopo quando caricavo l'acqua non si abbassava troppo, capito? Era comodo. Poi quella lì l'ho data, c'aveva 120.000 km quando l'ho data, ma l'ho data solo per comprarmi il tipo nuovo e ho preso il tipo nuovo, capito? Sì, ho capito. L'amico che è entrato io lo sentivo molto molto basso, non so chi fosse, da dove chiama, ma qua arrivava pio pio, non ti ho capito il segnale, ma arriva a Santiago 7, ma la radio è quasi incomprensibile, faccio fatica a capire. Ti avanti, chi sei? Mario? Adesso ho sollevato un po' il volume e riesco a sentirti meglio, Mario. Buonasera, c'è Natalino, Gianni che ti ha risposto, Antonio, poi non mi ricordo. Avanti Mario. Natalina, non riprende, riprendo io. Ciao Mario, ben sentito, dai. Vabbè, comunque, sì, è così. La Opel, quando avevano i motori General Motors, andavano alla grande. Non li facevi nulla, non li cambiavi marmita, non li cambiavi frizione, niente, proprio nulla. Beh, solo ultimamente, ti ripeto, mi è partita la centralina, ma forse per colpa mia, dai. Forse per colpa mia che lui si attaccano lineari eccetera eccetera e quindi magari ha fatto tutta la centralina per questo, capito? Sicuramente magari può aver anche influito e magari lineare, radio attaccata. dicendo se ci passava vicino la centralina quando modulavi, può darsi pure che abbia causato qualche problema. Non è sbagliata l'ipotesi, Gianni? Ci siamo sovramodulati, ripeti qua se ho detto che se avevi in quella radio il lineare con la radio, molto probabilmente può aver influito sulla centralina, capito? Non è sbagliata l'ipotesi. Ma infatti ho pensato quello, però poi ho visto, l'avevo tutta quanta aggiustata perché me la volevo tenere, poi ho pensato i chilometri sono tanti, meno male mi lascerà a piedi fra poco per qualche altro motivo, allora l'ho cambiata. Mi sono fatto un giro, volevo prendere anche io quella che hai tu, solo che ci metteva troppo ad arrivare. Poi sono andato alla Fiat, ho visto la mia, quella che ho preso e mi è piaciuta subito. Sai, quelle cose che ti colpiscono subito. Ho capito, cosa hai preso di Fiat? La 500 oppure altro? No, io c'ho la tipo turbo, benzina e GPL. No, negativo, ma è abbastanza grande come portabagagli, è lo stesso. Tu pensa che ci sta la cuccia del cane di quelle grandi? Ho capito, sì, l'ha presa anche un mio collega quella, l'automilu l'ha trovata, di quelle aziendali, ha fatto un affarone. No, io la mia l'ho già pagata, l'ho presa nuova e... Vabbè, comunque, è una macchina che mi sfrutterò io, se Dio vuole me la sfrutto io. Speriamo di sì, come tutti. Io spero di... adesso ci devo fare la distribuzione, e sono almeno 300-350 euro. Poi a settembre c'è la revisione da fare, tagliando, sempre spese sono le macchine. E io l'ho fatta l'altro giorno, la revisione. Senza robe l'ho pagata. Io pago. È aumentata. Purtroppo le spese ci sono e cosa devi fare, però quando ti serve, che se senza macchina sei perso, quando uno è abituato che si porta la spesa tutto gatto e invece quando prendi l'acqua che è pesante, capito, non puoi portartela a mano. Vabbè, dai, vi lascio, riprendete il QSO, buona continuazione e buona serata a tutti. Ciao, ce la sentiamo. Un'ultima cosa, ma non ti conveniva a prendere la gasolio? Cosa? Non ti conveniva a prendere la gasolio? No. Vabbè, già, non consuma tantissimo la gasolio. Vabbè, ok. Pianto, se mi hai visto potevi fare un fischio, magari c'è la radio accesa. Tanto il gasolio va, costa più della benzina, il gas è quello che costa di meno. Ma consuma sempre di manco, non ti preoccupare. No, la mia non consuma a gas, non consuma niente. Hai fatto bene a prenderla così a gas. Dove mi hai visto? Potevi chiamarmi, così magari ci saremmo fermati a prenderci qualcosa. No, ti ho proprio visto di sfuggita, Carlo. Ti ho visto, mi ero che agli Abruzzi. Insomma, sei passato lì. Può essere perché già ci passo sempre da quelle parti. Già capita, oggi ho fatto un deposito, ho fatto un po' di carne arrosto, l'ho fatto lì, ho pulito, ho capito. E niente, Natalino non c'è più. Stavo aspettando che mi rilanciaste. Già ci sono. Benissimo. Però adesso purtroppo devo assentarmi. Sono già le 8. Vi saluto, va. Ci sentiamo alle prossime. Ciao a tutti, anche a quelli che ascoltano. Ti ha rilanciato prima Mario da Porto Torres, però forse non hai sentito. Buon tutto e buon caricabatteria. E altrettanto, va. E non l'ho sentito, no, te l'ho detto, c'ho problemi di ricezione con questa antenna. Capito, e anche io adesso faccio due passaggi con Antonio e poi me ne vado a cenare, magari rientro dopo cena poi. Sono stanco, cavolo, pari, giù. Cazzo, cominciato a pulire, a fare, salvate il tracco. Se lo credo, se stavi facendo, io lo stesso ieri sono andato da mia suocera che stavo mettendo a posto con mia moglie ieri mattina, ma mi sono caricato la macchina, avevo una rete, il materasso, una libreria, che ovviamente l'ho tagliata, no, per starci in macchina, e sono andato poi alla discarica dove c'è il centro ecologico a smaltire tutto. Mi ho fatto due carichi, poi ho riempito un cofano intero di libri, tutta roba di carta da buttare, anche quella smaltita, e siccome c'ha tre piani, quindi ero su e giù, ho le gambe oggi tutte a dolori. Le gambe come te già fa, mamma mia, un bel casino. Purtroppo è così, bisogna fare sempre, Anto. Bene, Meda, io adesso vi lascio, non so se sei rimasto solo, se c'è qualcun altro, perché mi chiamano che è pronto da mangiare e magari rientro tra una mezz'oretta. Dai, dopo cena provo a fare chiamata se c'è qualcuno a fare altre quattro chiacchiere. Buonasera, grazie delle QSO, ciao Mario se sei ancora in ascolto, ciao Natalino, a più tardi. Forse Mario, sì, no? Ti sento basso, ok. Ciao Carlo, ci risentiamo. Anche io chiudo un po'. Ci risentiamo, ciao. Ciao Antonio, ciao Mario, alle prossime. Ciao.